Sì? Natalino, ci sei in ascolto? Ah, chi sono? Ah, giusto, quella radio brutta. Ciao, Luca. Brutta. Come padrone, brutta come padrone. Ciao, buongiorno, tanti auguri, buon Pasqua, ciao. Grazie tanto, ciao, ciao. A te, famiglia. Grazie. Io sono sul 12. Adesso vado a parlare con Gavino e Franco e Tino. Vedi, ok. Hai acceso il fuoco, Luca? Hai acceso il fuoco, Luca? Attento, Carlo, ci sei in ascolto? Che gesto dici? Canale di morti? Cicco canale 10? Tutti i drummi così. Vieni avanti, vieni. Quando lo faccio io con la polizia tra le panchine. E cosa c'hai? Male stai? Aiuto, entra, fa la trappola. Canale 10, copiate Antonio K.